Diritti e rovesci, in collaborazione con Adico, Associazione Difesa Consumatori. Nuovo appuntamento insieme all'Adico di Mestre, all'Associazione Difesa Consumatori. Un saluto a Carlo Garofolini, che è il presidente. Ciao Carlo. Ciao Francesco, e un saluto a tutti gli ascoltatori. Parliamo oggi di una questione che tutti abbiamo visto, ci siamo accorti, anche quelli che non leggono i giornali, che non guardano i telegiornali, che quindi non sanno che il petrolio è sceso di tantissimo al barile, nel prezzo al barile, però ci siamo accorti che insomma alla nostra pompa di benzina, se facciamo il pieno o anche i soliti 10 euro, ci viene un po' di gasolio, di benzina in più, perché insomma i prezzi sono scesi. Sì, allora noi come Adico stiamo un po' da qualche giorno valutando e analizzando quelli che sono gli andamenti del prezzo al barile rispetto a quello che sono i prezzi alla pompa applicati dai gestori. Oggi che abbiamo terminato appunto l'elaborazione di questi dati, ci rendiamo conto, e qua siamo un po' anche per denunciarlo, un fenomeno che ormai tutti siamo abituati a conoscere, di come l'andamento del prezzo al barile sta andando diversamente rispetto al prezzo che viene applicato dai gestori. In particolar modo abbiamo analizzato i dati dal 2012 al 2016 e abbiamo monitorato quelli che sono i prezzi più alti e più bassi delle pompe più note e meno note che vengono applicate qui in terraferma. E certamente il dato non sorprende, per non dire, anche se risulta sconcertante, su come questi due andamenti hanno subito valori completamente diversi. Sicuramente c'entrano anche le tasse. Non so se ci sono nuove tasse sulla benzina, ma certo è che la differenza è sostanziale. Dacci un po' di numeri, dai. Ok, allora, abbiamo calcolato per esempio un'auto a benzina, ma il ragionamento è identico per le auto a gasolio. Nel 2012, esattamente nel mese di agosto, il prezzo al barile era di 114,57 euro. Oggi, nel gennaio 2016, abbiamo calcolato un prezzo di 30 dollari, anche se siamo a valori inferiori sotto, rispetto ai 30 dollari, però questo è un po' il parametro. C'è stata quindi una variazione in negativo, cioè un abbassamento del prezzo del 73,8%. E abbiamo considerato un range dove il prezzo della benzina varia tra 1,78 euro a 1,9 euro nell'agosto del 2012 e nel gennaio del 2016 siamo di valori circa 1,29 euro al litro, quindi una variazione di costo applicato agli automobilisti che è diminuito solamente del 23,30%. Quindi ricapitoliamo: a fronte di un abbassamento del prezzo al petrolio, al barile del petrolio, del 73,8%, sostanzialmente alla pompa abbiamo avuto una diminuzione del prezzo poco superiore al 23-24%. Questa la dice lunga. Poi io mi ricordo che nel 2003 comprai la mia prima macchina a gasolio e quindi mi ricordo che in quell'epoca, era marzo del 2003, il gasolio costava 0,82-0,83 al litro. E sempre andando a vedere un po' i valori, il gasolio si comprava al barile proprio intorno ai 30 dollari e quindi dovrebbe costare ancora così, teoricamente dovrebbe essere sceso a 0,85, 0,90, ma siamo quei 20 centesimi abbondanti su 23. Certamente, secondo uno studio fatto dai nostri esperti, un prezzo equo che oggi noi dovremmo trovare alla pompa dovrebbe essere appunto intorno ai 0,85 al gasolio e 0,95-97 la benzina. Questo per far capire come alla fine questi valori non seguono, come abbiamo detto, un egual trend. Tant'è che a riprova di questo tutti ormai siamo abituati a subire quando gli aumenti di prezzo, quando ci sono delle variazioni nel prezzo del petrolio, automaticamente, in maniera diciamo istantanea, il prezzo di fornimento viene subito rialzato senza far passare tutto questo periodo molto lungo che ancora stiamo subendo in questa fase di ribasso dei prezzi per effetto di un adeguamento che non avviene. Per cui è vero che le accise sicuramente incidono moltissimo sul prezzo del carburante, però è anche vero che a nostro avviso anche chi fa il gestore di queste stazioni di rifornimento certamente fa fatica a recepire questi andamenti a ribasso e molto molto lentamente adegua questi prezzi. Oggi, ricordiamo, per noi si tratta di valori ancora troppo alti che non giustificano certamente i prezzi alla pompa. Eh sì, con chi ce la dobbiamo prendere? Non con i gestori della pompa, poveretti, che mi sa che sono costretti ad attuare i prezzi delle compagnie petrolifere. Cosa potremmo fare, Carlo? Beh, ricordiamo che innanzitutto è vero quello che dici fino a un certo punto, perché non è che poi se andiamo sulle pompe bianche troviamo queste cifre così diverse insomma rispetto a quelli che sono i prezzi dei marchi, che comunque sappiamo che sono più costosi, anche se è vero che per esempio ci sono marchi come l'Eni che per esempio nell'occasione di notte in cui ci sono i self-service troviamo dei prezzi diversi rispetto al servito che magari di giorno gli automobilisti sono, conoscono molto bene. Su quello che potremmo fare, al di là di quelle che sono le denunce che anche l'Adico come l'associazione dei consumatori in generale rivolgono a chi di queste situazioni dovrebbe far garante, sarebbe veramente da boicottare qualche compagnia per indurla un pochino a rivedere quelle che sono le proprie strategie. Certamente sappiamo che questo è molto difficile attuale, però ci auguriamo che insomma denunciando queste cose anche con l'aiuto di persone come te insomma che fa questo lavoro e contribuisce a noi a portare a sotto riflettori queste notizie, di sensibilizzare anche chi fa questo lavoro e certamente adeguare un prezzo equo, ricordando anche che ci sono delle iniziative per cominciare ad abolire, farsi promotori ad abolire quelle che sono vecchie accise che ancora paghiamo a distanza di quasi un secolo, che oggi insomma sarebbe ora di cominciare seriamente a pensare di voler eliminare. A stornarle, bisognerebbe stornarle, è una parola che dovremmo utilizzare di più e che i nostri governanti insomma attuino in qualche modo. Vabbè, grazie a Carlo Garofolini per averci fatto riflettere anche su questo fenomeno che sta capitando alle pompe di benzina. Ci ritroviamo per un prossimo appuntamento fra qualche giorno. Grazie a te Francesco e un saluto a tutti gli ascoltatori. Diritti e rovesci, in collaborazione con Adico, Associazione Difesa Consumatori. Per riascoltare questo programma vai su bluradioveneto.it.